programma. Inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. E si riparte, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, anche questo sabato, dopo la puntata speciale monografica della scorsa settimana. Intanto diciamo una cosa un po' diversa, ritorniamo a commentare i fatti della settimana che si sono accumulati anche questo sabato, moltissimi, durante questi giorni. Numero di telefono per voi, come sempre, per commentare con piena libertà delle vostre opinioni i fatti della settimana, 800 24 00 24. Quante ne sono successe anche questi giorni? Tra poco vi farò, come sempre, una brevissima sintesi. Ci sarà come sempre un opinionista estemporaneo che ci aiuterà a commentare dal suo punto di vista i fatti di questi giorni. Vogliamo giusto così buttarne lì già qualcuno? Per esempio questa iniziativa del governo di chiedere ai cittadini di segnalare gli sprechi sul suo sito ufficiale. Sono arrivate migliaia, decine di migliaia di proposte anche sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni. Poi mi direte anche cosa ne pensate di questa iniziativa, al di là di segnalare quali possano essere gli sprechi, le spese inutili, futili, eccetera. Tra l'altro va segnalato a margine, anzi parallelamente a questa cosa, che è stato rimandato il provvedimento sul finanziamento pubblico ai partiti, cioè le misure che devono essere prese per dare, diciamo, un po' più di dignità a questa cosa, visto lo stato in cui si trova il paese. È vero, però per il momento è stato rinviato ogni ritocco. C'è poi una notizia purtroppo tragica di questa mattina. C'è a Venezia il raduno dei carabinieri in pensione, devono fare le loro sfilate annuali, e c'è stato questo incidente di un pullman che è finito in una scarpata con 5 morti, quindi lutto tra i carabinieri. La vicenda dell'uomo che ha preso in ostaggio vicino a Bergamo, nell'agenzia delle entrate, alcune persone, poi hanno tenuto uno fino all'ultimo, poi si è reso che rischia 8 anni, che è diventato sul web un po' un eroe, anche se non si è capito bene poi ieri sera qual era effettivamente l'ammontare del suo debito con Equitalia. Lui aveva detto 44.000, poi invece Equitalia ha detto no, si tratta solo di 2.000 euro, insomma una situazione un po' ancora poco chiara. Poi i suicidi per la crisi, che purtroppo continuano, e c'è stata la sfilata delle vedove degli imprenditori che si sono tolti la vita negli ultimi mesi, ieri a Bologna. La tassa sugli immobili, la ministra Cancellieri dice, insomma, i sindaci ribelli, ricordatevi che voi portate il tricolore, non dovete tradire la patria. Loro, che però sono un po' sul piede di guerra, dicono non è che possiamo fare sempre solo gli esattori. Poi sapete che è stato ricoverato Andreotti, ma ha la scorza dura e sembra che faccia già da tempo, da giorni, da quando è stato ricoverato, varie battute, quindi si sostiene con l'ironia. Tra l'altro, volevo, per una semplice curiosità anche vostra se volete, ricordarvi quante cariche ha avuto Andreotti nello Stato italiano, nei governi italiani, una roba incredibile. Allora, è stato 7 volte primo ministro, presidente del Consiglio, 7 volte, 8 ministro della difesa, 5 volte ministro degli esteri, 3 delle partecipazioni statali, 2 di finanze, bilancio e industria, 1 volta ministro del tesoro, 1 dell'interno, dei beni culturali a interim e delle politiche comunitarie. Gli mancava solo le pari opportunità, anche se non so se a tempo ci fossero già, non so se gli interessassero, insomma, ha fatto praticamente di tutto e per anni. Questa è la figura un po' particolare, anche controversa, di Giulio Andreotti. Poi le, diciamo, novità sull'inchiesta legate alla Lega, con titoli di studio saltati un po' qua e là in varie nazioni sparse e di dubbia provenienza secondo la Guardia di Finanza, ma poi ovviamente l'inchiesta andrà avanti. Sapete che poi è stato chiesto l'arresto per Lusi, ex tesoriere della Margherita, che avrebbe sottratto, prelevato dal partito Bammano 25 milioni di euro. Ma gli altri dove erano? Dormivano? Come si fa a sottrarre così 25 milioni di euro dalle casse di un partito? E Draghi dice che il governatore della Banca Centrale Europea, che piano piano ci sarà una graduale ripresa nel 2012, però l'Istat poi dice che la disoccupazione è record ormai, al 9,8% in Italia e il 36% dei giovani è senza lavoro, una situazione gravissima questa. Ci sono poi le elezioni in Italia, sapete, le amministrative. E poi in Francia questa lotta tra Hollande socialista e l'uscente Sarkozy sembra che sia ormai in testa Hollande, anche se la forbice si è un po' ristretta. Poi una cosa interessante è che da oggi il Giappone sarà ufficialmente senza nucleare. Dopo Fukushima nessuno vuole più il nucleare, il 70% della popolazione non ne vuole più sapere, e questa tensione poi diplomatica tra Stati Uniti e Cina per il dissidente ceco che Stati Uniti dovrebbero ospitare. Femminicidio, lo sapete che ne parlo praticamente quasi ogni puntata. Anche questa settimana ha avuto le sue donne uccise, mi pare almeno tre, quindi siamo nella media, diciamo una ogni due giorni. E c'è stata anche una manifestazione di donne fuori da Montecitorio con 55 cartelli, ognuno portava il nome delle 55 donne uccise dall'inizio dell'anno, e poi i numeri qui fanno come sempre rabbrividire. E questa storia dell'allenatore della Fiorentina che ha preso a pugni un suo calciatore. Che ne pensate anche di questa vicenda? Ma come sempre vi dirò anche che cos'è che questa settimana ci dice che non ci sono più le mezze stagioni. Non ci saranno più le mezze stagioni, ma neanche le intere. Sono un granché. È inutile che mettete la lavatrice dopo le 19, magari di notte in funzione, perché sapete che si risparmia boom boom boom con poi dopo il lavaggio e soprattutto la parte finale che disturba, diciamo, la signora di sotto e il signore a fianco, e anche la lavastoviglie che sì, sono silenziose, ma sempre il loro rumorino, e poi dice mettiamola di notte che così si risparmia. No, non si risparmia più. Non si risparmia più, infatti l'autorità per l'energia ha deciso di aprire un'indagine su questa cosa, perché probabilmente il fatto che non si risparmi più, anzi si potrebbe addirittura pagare di più mettendo dopo le 19 in funzione ferro da stiro, lavatrice, lavastoviglie eccetera, dipende da una guerra di prezzi sul mercato tra le rinnovabili, che adesso stanno andando molto, e l'energia tradizionale. Siccome durante il giorno magari vengono sfruttate più le rinnovabili, allora per l'energia tradizionale ci si rifà con i prezzi proprio la sera, quando le rinnovabili invece sono un po', diciamo, fuori gioco. Quindi sappiatelo, in realtà questa cosa che era stata introdotta dal 2010 non è più molto valida, e anche questa cosa cambiano i tempi, ma c'è sempre l'opinionista estemporaneo. Anche oggi non ci sono più le mezze stagioni, chi sarà, signore e signori? Stefano Zecchi. Buongiorno. Buongiorno Stefano, è stato prontissimo questo buongiorno. Come andiamo? Bene, grazie. Sei a Milano tu o a Roma? A Milano, a Milano. Quindi sei sotto il diluvio anche tu, cioè in casa, immagino, spero sotto un tetto. Sono a casa, sì. A proposito di stagioni, no? Ieri cosa siamo? 27 gradi a Milano. Sì. E infatti dà fastidio questo alto e basso. Direi proprio di sì. Stefano, scrittore, filosofo, professore di estetica all'Università Statale di Milano, ha pubblicato da poco per Mondadori "Dopo l'infinito cosa c'è, papà? Fare il padre navigando a vista". Diciamo che un po' tutta la vita ormai è una navigazione a vista. Caro Stefano, tu sottolinei il ruolo del padre in crisi, quanto è difficile avere a che fare con un figlio oggi, soprattutto un figlio piccolo come il tuo, con un padre, tu ti descrivi come un giovane padre, diciamo, un padre di una certa età. Di una certa età, un giovane padre di una certa età. Senti, però subito mi viene questa domanda da farti sulla tua gioventù, sulla tua maturità. Tu ce l'hai un buon curriculum, immagino tu ce l'abbia, no? Beh, dipende, dipende da quale prospettiva si voglia vedere la cosa. Ecco, se tu volessi diventare direttore generale della RAI, o presidente della RAI ancora meglio. Sai che sono stati inviati vari curriculum in questi giorni, eh? Cioè il governo che sta vagliando proprio i curricula, se si dice. No, ecco. Non mi piacerebbe farlo. Non ti interessa? No. Quindi non lo mandi, io ti ho voluto avvisare nel caso, no. Un'occasione come un'altra. Vabbè. No, ma poi scherziamo, questa storia qui dei curriculum è esattamente come la cosa delle telefonate o delle mail per gli sprechi. Eppure semplice demagogia. Ecco, proprio questo ti volevo chiedere. Poi vorrei leggere anche qualche commento sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni. Dicevo all'inizio che ne sono arrivate migliaia al governo, anche se per una questione di privacy non si possono visionare, sono delle robe un po' strambe. Beh, ecco, questo volevo chiedere a te e all'ascoltatrice e agli ascoltatori. Questa richiesta fatta dal governo è un desiderio di coinvolgere davvero i cittadini, di farli sentire partecipativi, insomma, con l'azione del governo, o è più una, appunto, una mossa demagogica per dire noi intanto facciamo le nostre cose, abbiamo le nostre difficoltà, facciamo finta di far vedere che chiediamo anche il loro parere? Quindi per te è la seconda? Ma per me è la seconda, anche se posso pensare che ci fosse il desiderio di coinvolgere i cittadini, ma appunto come diceva quel politico che adesso è ricoverato e che a cui gli facciamo gli auguri, a pensare male si fa peccato ma si sbaglia raramente. Andreotti, questo l'abbiamo capito, quindi tu hai pensato male. Stefano, però essendo tu padre, parlando della tua esperienza personale, Nel caso di Delio Rossi, l'allenatore, ex allenatore adesso della Fiorentina, che avresti fatto con quel calciatore che non si è capito bene se gli ha insultato il figlio, che comunque non è poi in realtà nella vita un disabile, oppure gli ha detto che fai vecchiaccio di merda. Tu come avresti reagito se lui l'ha scazzottato? Da un certo punto di vista io posso anche capire queste reazioni. Per me è già molto più difficile perché ho un mio flemma, che è la flemma di uno che ha lo scirocco nel sangue, perché io sono un veneziano, quindi faccio fatica a scompormi. Però è un bene questo. Insomma, è chiaro che chi ha queste responsabilità, è chiaro che chi ha gli occhi addosso deve avere anche la capacità del controllo. E l'esempio purtroppo è pessimo, siccome il calcio lo vedono tanti giovani, ragazzini, insomma tutte le scene di violenza sono brutte, da quelle appunto dell'allenatore Rossi a quelle dei tifosi, cos'era, due settimane fa del Genova, sì. Anche lì tanta ipocrisia, perché tutti piangono per la morte di quel povero ragazzo Morosini che muore in campo, e allora siamo tutti buoni e bravi, poi in realtà buoni e bravi lo stadio non ne vede poi così tanti, ecco, quindi tanta ipocrisia. Cosa ne pensate anche voi ascoltatrici e ascoltatori all'800240024? Tra poco sentiamo Beppe che chiama da Verona, ma concentriamoci anche un po', quindi dicevamo, sul tuo libro Dopo l'infinito cosa c'è, papà, le domande, no? Su diciamo. Sì, in genere questa domanda qui viene presa come un interesse scientifico di mio figlio, è un bambino piccolo. E no, quanti anni ha? Che adesso ne ha 8. In realtà era la sua curiosità nasceva dal fatto che un giorno era così ammalato, stava con questi febbroni che vengono ai bambini piccoli, allora mi è venuto a dirgli ti voglio un bene infinito. Bene infinito, la mattina dopo voleva qualcosa curioso. Di più, voleva qualcosa di più. No, sì, voleva capire che tipo di bene gli volessi, perché non riusciva a capire cosa fosse un bene infinito. E dopodiché, quando ho cercato di spiegargli appunto che era una cosa immensa, grandissima, dice sì, ma dopo questo cosa c'è? Proprio perché probabilmente voleva ancora più da me un bene oltre l'infinito. Ecco, quindi quella è una domanda che è entrata dentro il libro e poi ne ha fatto il titolo. Poi le domande sono tante, no? A quell'età è difficile, certo, avere a che fare, riuscire a dare delle risposte intelligenti, esaurienti, che coinvolgano fino in fondo, che siano chiare, no? Sì, ma ti mette alla prova la semplicità della tua stessa visione della vita, perché io mi sono accorto, appunto, io non avevo figli prima, che un bambino, almeno alla mia età, finisce per ridefinire tutti i propri valori, capire le cose che contano, le cose inutili, e dà una bella revisione alla tua esistenza. Naturalmente, per quanto mi riguarda, una revisione molto bella, positiva, mi ha dato molta vitalità. Sei diventato più piccolo o più grande con tuo figlio? Cresci con tuo figlio, almeno, insomma, per me che ho un passato alle spalle, quindi non è che dal lavoro cerchi chissà che cosa, se non quello di tirare avanti nel modo più dignitoso, e quindi non sono dentro a una spirale di competitività, di ansia di prestazione, eccetera, che purtroppo capita ovviamente a quei papà che devono affermarsi nel lavoro, semplicemente avere un lavoro. E beh, io ho avuto in questo caso la fortuna di avere un figlio nel momento in cui, insomma, la mia vita aveva già preso Sue gratificazioni e una sua strada ormai. Tra le notizie vi volevo segnalare anche questa, di questa svista di un candidato di Paternò in Sicilia, vicino a Catania, che ha copiato nel suo programma elettorale per queste amministrative il programma del collega di Genova, e immaginando delle spiagge dorate, di voler mettere degli ombrelloni per far vedere i tramonti con le palme. Il problema è che a Paternò non c'è il mare, e quindi, diciamo, penso che questo candidato non so quante possibilità di vincere abbia, a meno che uno non voglia immaginare che si possa fare il mare anche dove non c'è il mare, quindi questo sia un sogno da vendere per le elezioni. E Beppe da Verona. Ciao. Ciao Beppe. Ciao. Senti, io volevo porre un quesito, non so a chi, ma insomma io lo pongo. No? Nell'etere vuoi lanciare questo quesito? Sentiamo. Sì, nell'etere. Le lanciamo, le vediamo cosa succede. Il governo chiede ai cittadini di segnalare gli sprechi, le spese inutili e cose varie. Sì. Ora io mi domando, è possibile che programmi come Report, come Le Iene, come Striscia la Notizia riescono a individuare queste realtà di spreco, queste realtà di uso improprio dei soldi dello Stato? E lo Stato non ha organi di indagine, di ricerca, per scoprire quello che invece una trasmissione televisiva scopre e deve ricorrere all'aiuto dei propri cittadini per andare in fondo a questa questione? Cioè, io sono basito, sono veramente sconvolto. Io vivo qui a Verona, ma sono originario di Torito, in provincia di Bari. E vedo la differenza, per esempio, che c'è nella sanità. Un medico che sbaglia a Bari, un medico che sbaglia a Verona viene denunciato al tribunale e viene perseguito. Sei sicuro che non succeda anche al sud e a volte invece non succede al nord? Diciamo che è un po' mista questa situazione, però. È successo perché per uno sbaglio, per una peritonite non diagnosticata bene, mio suocero ci ha lasciato. No, questo lo so che succede. Ma quando noi abbiamo cercato di addurre le vie legali, non siamo andati a parare a niente. Questo è successo in Puglia, Vabbè, ma questo è dalla natura più propria del mio intervento. Visto che siamo il paese dei misteri, dei delitti non risolti, eccetera, c'è qualcuno che può dirmi perché lo Stato, in un tentativo patetico di un coinvolgimento che non porterà a niente, perché prova un po' a immaginare, Roberta, migliaia di mail, ma chi le legge? Sono arrivate 100.000 e più a questo punto, erano 40.000 4 giorni fa. Ma chi le leggerà? Se anche fra quelle 100.000 ci fossero delle denunce circostanziate e documentate. Ma tu hai un indirizzo di posta elettronica, cioè sai che cosa vuol dire, per esempio? Guarda, aprire un secondo la posta lavoro e trovare solo gli spam. Cioè tu evidenzi il primo, evidenzi l'ultimo e cancelli tutto se non sono persone che conosci, perché altrimenti vai fuori di testa. E quindi a sto punto, ma a cosa ci vogliono fare ancora di più? Io appartengo alla classe media, se vuoi anche medio-alta. Sono un dipendente, prendo un buono stipendio, va bene così. Però siamo stanchi, dai. Siamo stanchi di essere pelati, di essere presi per i fondelli e alla fine, venendomi in cauda, è proprio il caso di dirlo, ci fate anche questo bel regalo. Diteci voi chi spreca. Ma scusa, visto che tu prima hai detto una parolaccia, adesso ne dico io una, sono una protetta, ma non è eccessiva. Come ho potuto dire parolaccia? Ma chi vuoi prendere per il culo? Ma scusa un attimo. Ti riferisci al governo? Sì, io mi sento preso veramente per il culo. Intanto oltraggiato, perché vengono a mungere sempre la stessa vacca, che è la maiale tette secche, che è quella dei lavoratori dipendenti, dei pensionati e cose varie. E adesso per far vedere che qualcosa stanno facendo, abbiamo la patrimoniale che nessuno la va ancora a toccare, abbiamo le banche che... Ecco, quella non sarebbe male anche immaginare, visto che la si chiede da tanto tempo, anche questa cosa della patrimoniale, il finanziamento, abbiamo sentito, pubblico ai partiti, che rimane per ora tale quale, rimandiamo dopo il voto, sembrava avessero fatto proclami ABC, come si dice, no, Alfano, Bersani e Casini, già al tempo di Lusi, dobbiamo subito immediatamente mettere mano a questa cosa, poi evidentemente non hanno avuto tempo con tutto quello che hanno da fare. Beppe, ti ringrazio, è stato chiarissimo, non chiedo a Stefano Zecchi cosa ne pensa, perché già ci aveva detto che per lui è demagogia e che a pensare male in genere non si sbaglia. Oscar da Brescia invece cosa ci dici, Oscar? Prima cosa, grazie Roberta che mi avete chiamato, e dico che ascoltando il professor Zecchi, che ride da voi, avete una persona talmente positiva che è il massimo dei psicologi che ci sono in giro. Che il massimo? Il massimo di? Credo che sia psicologo lui, no? No, è filosofo e scrittore. Sì, ecco, ho sbagliato parola. È una persona molto posata. Dunque, io ho sentito questo signore che ha parlato prima. Io sto ascoltando di quelle lamentele di gente che ha votato questo governo. Quale governo? Il governo che c'è, il PDL, la Lega. Quello che c'era prima di questo governo tecnico. Sono proprio loro che si stanno lamentando. Però io ho telefonato per un'altra cosa. Dunque, la mia cosa è questa. A me è arrivata anche a me una cartella dell'Equitalia. Sono andato là, ho fatto vedere che io avevo pagato tante belle scuse, sotto gli ho messo una fattura. Ho detto, che cos'è? Io oggi ho perso 3 ore di lavoro, voglio 100 euro. Che ti hanno risposto, Oscar? Si è messo a ridere, ho detto, sì, voi ridete, io non rido, parlo seriamente. io, voi mi avete mandato, ho perso 3 ore, sono venuto, vi ho presentato questa mia fattura, io pago i diritti, l'anno scorso ho perso il lavoro facendo l'agente e finché non mi usciva un altro lavoro io cosa faccio? Sono andato a fare il muratore, dove lavoravo facevo prestazioni di manodopera e facevo la fattura. Se uno è al suo posto, quando, anche quando si parlano di suicidi, una cosa, ma queste persone qua, anche se non perdevano il lavoro, l'avrebbero fatto ugualmente. Ormai erano sull'orlo di fare queste cose. Cioè noi ne parliamo come se dovessimo parlare di un labirinto, chissà di che cosa, ma non sanno quanto male fanno le loro famiglie. Oscar, senti, ti ringrazio. Vorrei chiedere a Stefano Zecchi. Stefano, a te sembra che, come si dice da più parti, cominciano anche diversi commentatori, opinionisti a dire questo, ci sia poca sensibilità da parte del governo al malessere, alla disperazione anche in molti casi che c'è nel paese? Beh, sì, direi proprio di sì, perché altrimenti non monterebbe questa disperazione, perché è un dato non immaginario, è drammaticamente un dato reale. Non è un dato percepito attraverso delle sensibilità. Come l'umidità, dici, come l'umidità a volte percepita. È un dato di fatto, cioè qui si dimentica una cosa che mio padre era un piccolissimo imprenditore, proprio piccolo, e si dimentica qual è il modello di proiezione della propria vita di un imprenditore, il quale non confonde la sua vita col lavoro, ma trova la sua vita realizzata nel suo progetto di lavoro. Quando viene meno questo, se non ha un rapporto di relazione costruttivo, qualcuno che lo aiuta a superare la crisi, se si vergogna della situazione in cui è precipitato, davvero è la crisi più totale. Allora, di fronte a queste situazioni ci dovrebbe essere una sensibilità da parte di chi ci governa, di capire che insomma loro sono a disposizione nostra, cioè il problema non è che loro devono sapere come io spendo i miei soldi, ma io voglio sapere come spendono le mie tasse. Cioè, qui si è rovesciato, ma non adesso, è nel tempo, adesso i nodi arrivano al pettine, si è rovesciata una situazione di rapporto che dovrebbe essere il più semplice e naturale, si dice al servizio dei cittadini, sì, ma questo diventa un'altra delle tante ipocrisie o visioni patetiche, come diceva il signor Beppe prima, con una parola forse molto più appropriata della mia, in cui non si riesce più a capire qual è il giusto rapporto tra i governanti e i governati. Ma sei d'accordo, Stefano Zecchi, anche con quanto diceva invece Oscar, diceva insomma il governo dimessosi, il PDL, Lega, che adesso fanno molte critiche al governo Monti sul fatto che non agisce in certe direzioni eccetera, ma loro dice dove erano? Infatti secondo me qui c'è un concorso di colpa complessivo dei governi, anche perché mi pare, se non sbaglio, sono stati 9 anni i governi di centrodestra e 8 anni i governi di centrosinistra dall'inizio cosiddetto della Seconda Repubblica. Un concorso di colpa complessivo e un concorso di colpa della governance europea, perché anche lì qualcosa avranno pur sbagliato. Certo, a livello europeo, ma possiamo già guardare in casa, che direi che ce n'è abbastanza. Stefano, tra l'altro vedevo sul sito di Repubblica Online, visto che parliamo di femminicidio, io ne parlo quasi in ogni puntata, c'è anche siamo 4 credo le donne, 3 erano poche, 4 a Vicenza, un 28enne uccide l'ex fidanzata arrestato dai carabinieri, quindi diciamo non ci manca mai l'omicidio, il femminicidio quotidiano. Ma adesso Valeria Bernardi mi comunica che abbiamo il nostro collegamento con un altro pianeta, quindi dobbiamo acchiapparlo immediatamente, altrimenti salta. Ecco. Riflessioni da Marte. Sono tempi duri, lo si intravede bene anche qui da Marte. Sono tempi duri per tutti, non crediate. Anche diversi parlamentari che sino a qualche tempo fa al ristorante del Senato mangiavano, muniti di posate d'argento, carpaccio di filetto in salsa di limone a 2,76 euro o lamelle di spigola con radicchio e mandorle a 3,34 euro, ora a quel prezzo trovano solo al ristorante di Palazzo Madama riso bollito. Tempi duri, insomma. Per cose più raffinate devono sborsare qualche euro in più. Sarà per questo, ed è comprensibile, poveracci, che hanno deciso i parlamentari di rinviare i ritocchi al finanziamento pubblico dei partiti, a dopo il voto. Del resto, perché fare oggi ciò che potresti fare dopodomani o magari mai? Giustamente, è vero. Però ci sono quelli che non rinunciano allo stile e all'eleganza, come, secondo le cronache di questi giorni, Verdini, Bondi, Schifani e Bersani, che restano affezionati al ristorante Fortunato, quello vicino al Pantheon a Roma, da 100 euro a pasto. Riso bollito non è per tutti, ma uno dei temi dominanti in realtà in questi giorni, diciamolo, è quello dei titoli di studio. E soprattutto delle lauree. Non è vero che costituiscono solo un pezzo di carta, come si va dicendo negli ultimi anni, incitando i giovani a rivalutare le scuole professionali e a entrare subito nel mondo del lavoro. Che poi, quale lavoro? Pensate solo a tutti i commenti di questi giorni su una laurea incriminata. Avete indovinato qual è? Ebbene sì, è quella di Scott Thompson, amministratore delegato di Yahoo, il quale è accusato di aver detto bugie sulla sua laurea, che sarebbe in contabilità e non in informatica, come ha sempre affermato, e per questo rischia seriamente il posto di lavoro. E poi è vero, c'è un'altra laurea nel mirino, ma ingiustamente, diciamolo, quella albanese del Trota, ma via! Sembrava che non fosse buono a studiare, diplomatosi dopo varie bocciature a 21 anni, e poi si scopre che invece si è laureato addirittura facendo 3 anni in uno e con ottimi voti. Roba insomma da supereroe. L'unica cosa criticabile, semmai, in questa vicenda è che la Lega, o almeno parte di essa, si fa paladina del nord ma poi preferisce l'est, dove pare sia collocata l'Albania. Ma invece di tante critiche al povero Trota, avete provato a pensare che il suo possa essere un classico caso di fuga di cervello all'estero? Facciamo finta che tutto va bene, tutto va bene. Facciamo finta che tutto va bene. Che il povero sia in fondo un gran signore, che il servo stia assai meglio del padrone. Facciamo finta che tutto va bene, tutto va bene. Facciamo finta che tutto va bene. Ritorniamo subito con i piedi per terra, andiamo all'800-0024-0024, prima di una prossima brevissima pausa. C'è Antonio da Monza. Caro Antonio. Ciao. Ciao Antonio. Senti, io ho chiamato perché è un po' di giorni che volevo chiamare Cruciani per dirgli sta cosa, non sono riuscito e quindi a mettermi in contatto. E sì, perché due interventi fa un tuo ascoltatore è intervenuto su questo fatto. Sì. Cioè... sul sito aperto su internet per dichiarare gli sprechi, sì, e bla bla bla, sì, bla, no? Come se bisognerebbe esaminare questo fatto analizzandolo in modo matematico. In realtà questa è solo politica. Mi viene in mente che 4 mesi fa, quando più o meno, quando si è insediato il governo Monti, praticamente ha parlato di equità, sprechi dalla politica e comunque di rimettere in sesto sto cavolo di paese. Ha fatto le cose più semplici e banali che tra l'altro i partiti giustamente se ne sono guardati bene da sentirsi nel peso, infatti se ne sono messi da parte tutti, anzi sono riusciti a fare la grande coalizione dopo 1000 anni di disastri sempre causati da loro. C'era all'epoca la polemica sugli sprechi e Monti ha parlato di equità. Sì. Sono passati un paio di mesi, hanno sistemato il popolo con l'anello al naso, vedi pensioni, vedi tutto il resto, IMU lascio perdere perché tra l'altro non mi interessa nemmeno perché io sono in affitto, quindi agli affittuari, tra parentesi, qualsiasi governo se ne è sempre fregato, a quelli che hanno un mutuo invece Per carità, diamogli una mano. Vabbè, tra l'altro è notizia, scusami se ti interrompo, Antonio, di stamattina, almeno così titola il Corriere della Sera, dice prima casa IMU facoltativa, quindi ancora non si capisce bene su questa benedetta IMU, è un'ipotesi dei tecnici del tesoro questo, dal 2013 poi decidono le città, insomma, tutto un po' ancora in fieri. Questa cosa mi interessa. Relativamente, perché sei in affitto, dicevi, no? Era proprio esatto, di interesse collettivo, a parte per chi è in affitto. Sì, è collettivo per i proprietari di casa. Sì. Io mi tiro fuori, sono sempre stato fuori, mi rendo conto che io sono un assente estinto, oppure siamo la categoria degli affittuari nell'oblio, no? Non gliene frega niente a nessuno. Consapevole di questo, non me ne frega niente, punto. Ritornando a Monti, adesso, secondo me, qua c'è la vera politica di Monti, cioè il fatto che una persona come Monti, criticabile per quanto si vuole, ha sprecato delle parole, di sicuro, per quanto mi riguarda, è uno che ha sprecato delle parole con la faccia che ci ha messo, e la faccia ce l'ha messa non solo in Italia. Ecco, ma con questo cosa vuoi dire? Antonio, cosa vuoi dire? Quindi questa equità, questo annuncio sull'equità lo manterrà? Il fatto di cercare di riequilibrare un po' la situazione tra chi ha più e chi ha meno. Senti, scusa Roberta. Prego. Posso? Questa è la propaganda politica del governo dei tecnici, che è molto più raffinata della propaganda politica dell'ultimo personaggio chiamato Presidente del Consiglio, che ci ha governato. È molto più raffinata, cioè va alla base. Però alla base. Ecco, quindi la conclusione per te è che è propaganda, quindi Antonio. Facevo per stringere un po' che propaganda, siamo... No, è propaganda politica, ma quella buona. Cioè, è qui la differenza, perché se in quel sito arrivano 1 milione di mail che dicono le auto blu dei tot sono tot e le dobbiamo azzerare. Sì. Ecco, ritornano i giornali a parlare degli sprechi, l'opinione pubblica se ne fa atto e il governo e soprattutto i partiti politici devono fare qualcosa, far finta che non esiste. Molto... E siccome occupano la maggioranza in Parlamento e in Senato, a quel punto l'attacco politico del governo Monti per mantenere le parole sprecate sull'equità si fa fatto reale. Sempre Roberto Giordano con voi, e sempre opinionista estemporaneo oggi Stefano Zecchi, filosofo e scrittore. L'ultimo libro si intitola Dopo l'infinito, cosa c'è papà? Fare il padre navigando a vista. Sempre numero verde a vostra disposizione, 800 24 00 24. Vorrei sentire sulla questione degli ultimi sviluppi leghisti, diciamo così, Stefano, che ne pensi? Questo rincorrere a tutti i costi di titoli di studio procuratisi, diciamo, in un modo un po' poco ortodosso, così vogliamo dire. Che ne pensi di tutta questa vicenda? Credo con un'opinione così condivisa che forse non vale neanche la pena di spenderla. E su Bossi che dice mi ricandido, ma ha perso completamente il lume. Evidentemente vuol dire che ci sono dei problemi dentro la Lega, e quindi Bossi pensa di poter tranquillizzare una base divisa, perché mi pare che un problema importante sia quello sollevato dalla Lega Veneta, che come si sa non ha mai Contosi, amato a Verona, dici soprattutto. Sì, da Zaia, Tosi. La Lega Veneta, che è originaria, è la Lega originaria, è quella che non ha mai poi accettato davvero fino in fondo la fusione con la Lega Lombarda. È arrivato questo, Bossi ha unificato, ne ha fatto quel partito che noi sappiamo, ma agli inizi degli anni 90 si sa che c'erano state delle tensioni, delle espulsioni. Mi ricordo il leader della Lega Veneta era Rocchetta, viene mandato via. Cioè, ora diventa evidentemente complicato nel prossimo congresso trovare una figura carismatica capace di tenere tutti insieme. Ecco quindi che capisco così l'avanzata del discorso di Bossi sulla sua proposta di candidarsi. Lo fa comunque mettendosi in gioco. Questo, secondo me, quando un politico si mette in gioco, tutto sommato è sempre positivo. Diciamo che ha giocato in un modo un po' curioso ultimamente, anzi, dalle cose che vengono fuori. Comunque, sentiamo Pietro da Torino, 800 24 00 24. Pietro. Salve, io volevo porre l'attenzione su questo aspetto. Mi sembra che manchi clamorosamente l'aspetto dell'educazione in questi ultimi anni, cioè l'educazione, quindi l'attenzione, la capacità di tirare sui ragazzi, quindi gli uomini, che poi viene clamorosamente in evidenza quando succedono dei fatti eclatanti. Un esempio, anche se quasi banale, è quello di Rossi, no? Degli Orossi, il problema, sì, il problema, secondo me, non giudico nessuno dei due, però dico, se c'è stata questa situazione per cui questo ragazzo ha insultato pesantemente, sicuramente è l'esito di un'educazione precedente, no? Di un modo di vivere, di concepire la vita di rispetto delle persone che non c'è. Questo è un esempio piccolo. Lo dici soprattutto da parte di Rossi o del giocatore ventenne? No, del ragazzino, del ragazzo che non ha avuto un'educazione, cioè non è certo, stato hanno educato, un po', hanno un po' questa sindrome di onnipotenza i calciatori, diciamolo ormai, si sentono un po'. Sì, ma era solo un esempio, no? Che però c'è in tutta la società, secondo me. Però dimmi una cosa, scusa, Pietro, mi interessa un tuo parere su questa cosa. Notizia di ieri che ha fatto un certo scalpore, ricordo tra l'altro che il dibattito, ogni tanto mi piace ricordarlo, il dibattito sull'omosessualità è riscoppiato, scusate se mi attribuisco questo parte piccolo merito, dall'inizio di febbraio, quando feci quella domanda che è stata definita addirittura epocale da qualche trasmissione, feci a Giovanardi su cosa ne pensava di un bacio tra due ragazze, venne fuori un putiferio, insomma. Ieri, notizia di ieri, che durante un seminario degli scout cattolici, Padre Francesco Compagnoni, assistente ecclesiastico nazionale del Movimento Adulti Scout Cattolici Italiano, durante questo seminario ha detto che i capi omosessuali negli scout sono un problema educativo. Dice: non tutte le posizioni, non tutti i comportamenti hanno la stessa dignità morale. Se un giovane manifesta tendenze serve uno psicologo. Che ne pensi a proposito di educazione? Avere un capo etero, omo, donna o uomo, tra l'altro non si parla mai di donne, ma comunque ci sono anche loro. Sì, ho capito. Beh, secondo me, allora, nell'ambito del cattolicesimo, lui ha ragione, nel senso che se uno va se uno propone un'educazione cattolica, in questo ambito è chiaro che, voglio dire, no? Perché un omosessuale non può essere un buon cattolico, secondo te? Ma no, certo che può essere un buon cattolico, però non è adesso non riesco a trovare le parole giuste, l'educazione, cioè la realizzazione della persona, ok? Nell'ambito del cattolicesimo, quindi come è stato insegnato, io sono cattolico tra l'altro, noi cattolici, questo aspetto qua è un aspetto che è al di fuori, cioè non è rispettoso della vita. Non è rispettoso, ecco, della vita, essere così, amare due donne che si amano, due uomini che si amano, non è rispettoso della vita. Il problema non è l'istinto, vediamo questo aspetto qua, il problema non è l'istinto nella vita, perché altrimenti se incominciamo a giustificare tutte le pulsazioni, cioè, dici, cioè non, l'omosessualità, non fine, no? L'omosessualità secondo te è un istinto, una pulsione, quella un po' primordiale, me, un po' bestiale, diciamo. Per quello che capisco io sì. Vabbè. Però io adesso Pietro, ti ringrazio. Pretendo di essere risolutore, voglio solo che però brevissimo Pietro, provi a rispondere il professore, che ecco, adesso io lo chiedo, infatti Pietro ti ringrazio, che pensi sinteticamente Stefano di questa questione? Penso che intanto questo ascoltatore ha toccato un problema decisivo, cioè quello dell'educazione, e anche per esempio la questione legata agli omicidi di cui all'inizio si parlava, che sono donne, uomini eterosessuali, sempre. No, sì, appunto, gli omicidi di donne di cui si parlava, e lì è chiaro che manca totalmente l'educazione sentimentale. L'educazione sentimentale è qualcosa che generalmente si apprende in famiglia, ed è soprattutto un padre che l'insegna. Anche moltissimo le madri, no? È più il padre, perché il padre ha un rapporto decisivo col figlio nel metterlo nella realtà, nel mondo. La mamma tende sempre più, vedo per mia esperienza, a dare una dimensione protettiva al figlio, una dimensione che interiorizza il rapporto, è quasi una naturalità che nasce dal fatto stesso che lei ha portato il figlio in grembo per tanti anni. Il padre è 9 mesi. Allora, mentre la madre è una figura assolutamente naturale, il padre è una figura culturale. Una delle tante fortune degli uomini che diventano padri è quella di costruire un rapporto culturale col figlio, culturalmente valido secondo la sua prospettiva. Ecco perché Io credo che un padre sia fondamentale, che oggi è sottovalutata la figura del padre. Questo può darsi, anche se in realtà poi sta assumendo altri aspetti che possono essere invece anche questi molto proficui, no? Ma della maggiore affettività. Come se hai visto questo mio libro, ce l'ho con la figura del mammo, perché è chiaro che un padre deve assolutamente interessarsi del bambino finché è piccolo. Io addirittura mi faccio un vanto di saper togliere e cambiare il pannolino al bambino, certo, con una mano sola. Beh, che cosa, operazione importantissima quando si è in giro al passo. Ecco, e quindi queste cose è giusto che siano, ma non può limitarsi a questo la funzione di un padre. Ma no, neanche quella della madre. Ritorniamo insieme ancora per circa quarto d'ora, poco meno. C'è sempre Stefano Zecchi, opinionista estemporaneo di oggi, filosofo, col suo libro Dopo l'infinito cosa c'è, papà? Fare il padre navigando a vista. Abbiamo buttato lì un sacco di notizie, un sacco di opinioni. Vorrei anche leggere brevemente, prima di sentire Fabio, Wanda e gli altri, un po' di commenti sulla pagina Facebook della trasmissione. A proposito di questo appello ai cittadini del governo, Indro scrive: abolirei le spese militari. Alessandro: si cominci dal Parlamento con la riduzione netta di deputati, senatori, abolizione delle province, prefetture, restituzione con gli interessi dei rimborsi elettorali. Stefano dice: aiutiamo i tecnici del governo tecnico a fare spending review. Insomma, dice, è una cosa su cui si possono fare diverse proposte. Allora dice: no alla TAV 20 miliardi, no ai 90 cacciabombardieri F-35 che costano 10 miliardi, tetto di 5.000 euro alle pensioni d'oro come Amato. Effettivamente il governo ha chiamato fra i tecnici, ad aiutare i tecnici, anche Giuliano Amato, che prende però per di pensione 31.000 euro, che anche solo prenderli come stipendio è, diciamo, un sogno tipo l'Eldorado, arrivare a una cifra del genere. E poi dice: divieto di cumulo delle pensioni, 17 miliardi, via l'Italia dalla guerra in Afghanistan, 780 milioni di euro l'anno. Quindi fa proprio delle proposte molto circostanziate. Roberto: spending review, governo e cittadini, siamo arrivati a livello di scemenza conclamata da parte dei tecnici, sono talmente bravi che non sanno nemmeno da che parte cominciare. Per Marco: ennesima presa per i fondelli da parte del governo. E Mauro scrive: ennesima presa in giro, anche lui, ennesima occasione per gli italiani di fare la figura dei boccaloni. Secondo Martin, il debito pubblico è una truffa, uno Stato sovrano, un'Europa sovrana non può farsi prestare il mezzo per scambiare i beni, cioè l'euro, e quindi dice bisogna prima di tutto avere la sovranità monetaria. Francesca Maria: riducessero le spese militari, il numero dei parlamentari, le pensioni d'oro cumulabili, finanziamenti ai partiti. Per Valentina invece bisognerebbe togliere il posto a tanti impiegati pubblici, dice, che non hanno le caratteristiche tecniche per ricoprire il loro ruolo, mettendo dentro invece personale formato. Quindi dentro chi sa lavorare, fuori i fannulloni. Giovanni: eliminare le spese per pagare i consiglieri comunali di tutta Italia, ma anche i consiglieri provinciali e regionali, e abolire le province sono del tutto inutili e costose. Enrica scrive: a me paiono del tutto fuori di testa, ma che governo tecnico del Menga è, dice, solo per aumentare a dismisura le tasse, e con quale cipiglio. E tante altre proposte, non riesco a leggerle tutte, insomma, per darvi un'idea. Fabio da Roma. Buonasera. Buonasera. Grazie per la possibilità di intervenire. Grazie a te. Io ho sentito più di qualche intervento con la quale concordo. So che durante le trasmissioni radiofoniche, televisive, secondo me si perde di vista è sicuramente la fascia di età tra i 30 e i 50 anni, che comunque non viene né incentivata, né supportata, né stimolata alla produzione, che poi in realtà è il motore del nostro paese, in quanto è la popolazione attiva che produce reddito e quindi produce versamenti all'INPS, che dà la possibilità di versare pensioni ed altro. E il mio collegamento rispetto alle opinioni e le affermazioni che sono state fatte è che tutte queste scoperte di mazzette, di giro di denaro, sia da parte di partite ma anche da parte della finanza, che viene a fare dei controlli, ad avere un gettito maggiore nelle casse delle entrate, io credo che possa essere una proposta quella di poter confluire parte di questa entrata di cassa nel finanziare, nel supportare giovani, perché comunque a 30 anni, 40 anni per il mercato del lavoro si è ancora giovani, considerando che l'età pensionabile si è alzata moltissimo, e che però non viene fatta, ma che secondo me dovrebbe essere una delle più importanti politiche prospetti che il nostro governo, altrimenti la progettualità di questo paese cade, perché per quanto i giovani neolaureati con la 3 più 2 o altro abbiano la possibilità di svilupparsi, questo è vero, ma è il futuro, il presente in questo momento è veramente sgrezzato. Grazie. Io ne vedo poco. Grazie Fabio. Wanda da Lecce. Pronto? Wanda, sì, siamo in collegamento. Buongiorno e rinnovo i miei complimenti per il modo con cui conduci la trasmissione. Posso darti del tu, no? Certamente, Wanda. Rinnovi perché l'avevi già detto qualche altra volta? Sì, sì, sì. Ah, sì, mi piace, sì, allora, certo. Questa conferma, molto bene. Sì. A parte, sarei felicissima se tu potessi condurre la sera al posto di Cruciani, la Zanzara. È chiaro, per il garbo, per il buon gusto, per il bon ton con cui, insomma, anche tratti le persone. Vedremo in futuro. A parte questo, speriamo davvero che Cruciani si prenda una bellissima vacanza, lui e il suo collega. Vabbè, non mi assenti. Il motivo comunque per cui ho telefonato è più o meno è lo stesso al quale fanno riferimento al quale fanno riferimento le persone che mi hanno preceduta. Cioè, da questa famosa Spending Review, che non è una rivista di shopping, qualcuno potrebbe pensare, ma fa molto esotico, la revisione della spesa. Sono laureata in inglese, quindi conosco bene la lingua inglese. Sì, naturalmente. È semplicemente una presa in giro, perché basterebbe che i nostri tecnici o i nostri politici in genere leggessero Gian Antonio Stella, Sergio Rizzo, vedessero la trasmissione Report e altre trasmissioni nelle quali viene denunciato costantemente lo sperpero di denaro pubblico, e loro si renderebbero conto di dove tagliare. Per esempio, ma io propongo una cosa semplicissima. Sì, allora, dimezzare gli stipendi alle regioni, ai consiglieri regionali, ai consiglieri provinciali, eliminare assolutamente le pensioni d'oro. Cioè, partire da queste cose che sono semplicissime. Wanda, infatti sono così semplici, scusami, che io spero che con tutte le indicazioni, i suggerimenti che hanno avuto, sapranno da domani dove mettere le mani. Grazie mille, Wanda. Adesso devo correre al prossimo appuntamento con il nostro Don Severino di Potenza, che in quei 2 minuti e 35, caro Don, ci dirai qual è il tuo pensiero di questa settimana. Grazie e buonasera a tutti. Volevo dire solamente questo, che in queste 2 settimane mi hanno colpito 2 fatti. Il primo, l'annuncio del CT Prandelli, il quale ha chiesto il coming out, no, dei calciatori, che sarebbe una cosa straordinaria perché provocherebbe veramente un aiuto moltissimo. Cioè che dicessero quali sono omosessuali e quali no con libertà. Esatto, questo aiuterebbe moltissimo tantissimi giovani, perché noi sappiamo che il campione, il calcio in Italia... È un modello, un esempio. Esatto. La seconda cosa invece che mi ha colpito negativamente, non so se l'hai letto o l'hai saputo, che uscirà un documento della GESCI in Italia. L'ho appena detto, che... Don Severino, dove sei? Dove nascondi? Che facevi? Eri lì, vabbè, con i tuoi ragazzi, ho capito. L'ho detto, che ne pensi di questa cosa? Che ne penso? Degli scout? Che chi scrive questo, perché loro hanno detto, per quanto riguarda l'omosessualità, la soluzione dirlo ai genitori e chiamare lo psicologo. Allora io vorrei dire a chi ha scritto questo documento, che forse ha dimenticato che l'omosessualità non è una malattia, insomma, ecco, prima di tutto. E in secondo luogo vorrei chiedere, per la soluzione di questo problema, che non è un problema, che in Italia dovrebbe subentrare una società matriarcale, non patriarcale. Sono d'accordo, Don Severino, permettimi di chiudere così perché è splendida questa tua chiusura. Grazie Don Severino, ciao. E ci sentiamo alla prossima puntata, perché adesso invece devo ancora correre più velocemente, perché io poi dopo verso la fine comincio ad essere frettolosa. La nostra Valeria della Valle, docente della Sapienza di Roma, ti chiedo la parola di questa settimana in 32 secondi, laurea, visto che va tanto questa laurea, diventa proprio una specie di laurea mitica. Laurea, corriamo. Dunque, intanto la parola laurea, lo ricordo a chi l'avesse dimenticato, è documentato nella nostra lingua per la prima volta nel 1554, proprio col significato attuale, titolo di dottore conferito da un'università. Alla base c'è la parola latina lauream, che a sua volta viene da laureum, che significava di alloro, quindi si sottintende una corona, e quindi la corona laurea era quella che si dava a chi aveva conseguito il titolo di studio, ma anticamente era la corona ornamentale degli dei e degli uomini vittoriosi. Ecco, chiudo qui, ma forse a chi prende lauree in un anno in paesi dei quali non conosce la lingua bisognerebbe ricordare proprio l'etimologia della parola, per farlo sprofondare nella vergogna per aver screditato e infangato non solo il titolo, ma un'antica parola che un tempo era riservata solo a chi quel titolo lo ha meritato, come moltissimi giovani, moltissimi nostri studenti. E magari mettersi un bel ramo d'alloro in testa invece di prendere la laurea in Albania. Grazie Valeria Della Valle. Invece volevo chiudere con uno sberleffo con Stefano Zecchi a un personaggio che ha distrutto l'Europa, ha distrutto tante vite, milioni di vite. Hitler, si legge dalle cartelle cliniche che saranno messe all'asta su un sito americano, che avesse una flautolenza incontrollabile. Chiudiamo con questo sberleffo tremendo. A un personaggio che ha terrorizzato e distrutto l'Europa. Sei d'accordo, Stefano Zecchi? La flautolenza incontrollabile di Hitler? Su questo mi interessa. Volevo solo dire che in fondo questa nostra società ha bisogno di padri. Sentivo prima Don Severino. Siamo proprio in chiusura, Stefano. Sì, abbiamo bisogno di padri, perché il padre è la...